Guardaci, Signore, con tutti i tuoi angeli. Curaci, Signore, manda Raffaele. Parlaci, Signore, manda Gabriele. Salvaci, Signore, manda il tuo arcangelo Michele. Michele, ci liberi dal maligno e dal male. Ci liberi dal maligno e dal male. Guardaci, Signore, con tutti i tuoi angeli. Curaci, Signore, manda Raffaele. Parlaci, Signore, manda Gabriele. Salvaci, Signore, manda il arcangelo Michele. Michele, ci liberi dal maligno e dal male. Ci liberi dal maligno e dal male. Il tuo regno venga e ci liberi.